fois le beat. 2016. Calamità infernali, travolto da uno tsunami. Mai nessuno la scampa ai peccati capitali. Qua giù regna sovrani e nell'oscuro in lontananza. Prima che abbiuro la santa luce mi abbaglia. Chi vende l'anima è schiavo, adulatore del male. Apprende vidi ma un errore abissale. A prezzo modico, abdico il dio cattolico. Lodo, l'odio un rogo, poi ferme per sfogo. All'improvviso un angelo mi afferra. Rimpaurito rall'angolo e mi porta in terra. Questo ormai è un mondo di merda. Aspetto che l'apocalisse via niente. Vedi in giro politica corrotta. Quando schiavo del dio danaro e la sua morsa si appresta ed entra in borsa, ricorda 2008 bro, crisi e bancarotta. La gente parla, vanvera ignoranza. È solamente questione di arroganza. La madre degli stolti è in gravidanza. La madre degli stolti è sempre in gravidanza. La gente parla, vanvera ignoranza. È solamente questione di arroganza. La madre degli stolti è in gravidanza. La madre degli stolti è sempre in gravidanza. Preti pedofili chiamano finti cattolici. Amano fatti logici, musica e varietà. Festini e vacche grasse, per loro niente tasse. Ma placche di ore e carità. Yeah, così lontani pensa, così amici tra la nube densa. Vedo muraglie contro i vicini, non dare retta a Salvini. Vi siete scordati quella volta in cui voi eravate gli emigrati. E per le strade papponi e puttane, nazi con l'amezzito ti pestano infame. Attento quando parli, tra omertà e silenzi dovrai pregarli. Tra Gomorre e baluardi. Yeah, altro che destra o sinistra, fascista o capitalista. Chi scende in pista possiede altro che credere, mai cedere. Se si scaltro insieme si abbatte il potere per una libertà. La gente parla, vanvera ignoranza. È solamente questione di arroganza. La madre degli stolti è in gravidanza. La madre degli stolti è sempre in gravidanza. La gente parla, vanvera ignoranza. È solamente questione di arroganza. La madre degli stolti è in gravidanza. La madre degli stolti è sempre in gravidanza. Povertà e ricchezza, gente avvezza al male. Cazzo, usa la testa, non sei un animale. È un cervello, un bagaglio culturale. Non sbaglio, non essere superficiale. Usandolo non ti possono inculare. Un'altra cosa lurida, c'è chi parla di musica, ma c'è qualcosa nell'aria che non va. Poi bro, se non ti piace l'andazzo, scegli il tuo preferito e non cagare il cazzo. Fanculo, si stronzi, ladri infami, politici corrotti. Non li accetto, spari in petto e cazzotti. Se mi ascolti, ti basta un giro nel ghetto. Non in cielo, non là sotto, ma in terra è l'inferno. Yeah, e questo è punk.